rimetterla un po' su e via, almeno sento tutti. Ma su su la devi mettere, su sul tetto. Sul tetto. Che antenna c'hai, Antu? A boomerang. Allora, se ci fossi stato ieri, Antu, un tipo da Brescia stava parlando con una boomerang che arrivava a Santiago 995 qua. E già faccia, già arriva. Purtroppo bisogna accontentarsi per adesso. Adesso ce la mettiamo sul tetto, poi verrà che arrivi. Meia. Vedi tu, Antu. Comunque arriva perché arriva. Sono delle antenne buone, dai, in mancanza di antenne più grosse vanno bene. Antonio, dimmi. Ma come me non la puoi mettere l'antenna sul tetto? La dovrei mettere sul tetto perché problemi condominiali, ma adesso già faccio un'invenzione io e la metto sul tetto. Problemi condominiali, ma l'antenna, dimmi una cosa, ma l'antenna della televisione sul palo? L'antenna della televisione è da avanzare. L'antenna della televisione? Della finestra è sempre. Ah, quindi non avete un'antenna sul tetto, diciamo, combinare con un amplificatore d'antenna? L'antenna sul tetto condominiale. Proponiglielo. Dice, ascolti, ma va a capo condominio, dice, ascolta, ma perché non va a mettere un'antenna? Ti piazzo l'antenna, facciamo l'impianto dell'antenna del corso. Ti fai comprare la roba e gli piazzi l'antenna per le televisioni. Vabbè, vi sarà un casino, quante famiglie siete? Sì, in quattro siamo. Ma io è che non ho detto. Adesso ti sento sotto il QRM, Anto. Gianni. Eia. Non lo sento, Antonio. Non lo senti più? No, non lo sento più. Vai in ora a Mara. Là, il maracchino ha dato un problemino. Ha dato un colpettino e partito. E cosa è successo, Anto? Gli dato per capricci. Ci sarà qualche componente da risaldare magari. Sì, sicuramente. O che sta partendo. Non basta la moto che metti a girare le balle. Perché? Non sta andando. No, non parte. E la candela controllata lì. Sì. Tira di radio. E poi c'è qualcosa. Adesso già viene un amico mio e me la controlla. Tira di l'aria. Perché maledizione gli è venuta. Guarda, o è il campo magnetico, o è la candela da cambiare. Sono queste cose qua che non la fanno partire solitamente. Parte al minimo e mi si chiuda. La benzina ne arriva. Sì che arriva. Prova a staccare il tubo della miscela, farlo scendere appena appena preso e magari è intasato lì dove c'è la carburazione. No, un depressore Ali. Il giglei controlla lì. Ma l'aria tirata gliel'hai? C'è molto, bisogna rimontarne cantesissimi. Ma l'aria tirata gliel'hai? Non ne ha l'aria. L'aria è automatica. Ehi, suia. È automatica. Sì, vabbè, quello è un casino. Vai Gianni. Tu, nel senso che c'avevi il mezzo per muoverti. Cazzo, ma stava andando bene, ho i pettini a forca. Può anche essere, che ci sia qualche residuo che abbia tasato gigli o carburazione, ma che cosa? Cos'è? A carburatore. Il carburatore c'ha il gigli, praticamente tu le smonti il gigli, lo soffi, magari con un ago fa uscire bene le impurità che ci sono, noi lo facevamo. Ascolta un attimino, ma quando tu vai a mettere in moto la candela te la trovi piena di benzina? Sì. E allora guarda che c'è lo spillo conico bloccato. C'è lo spillo conico bloccato dal carburatore e se non ha spillo conico ci sono le membrane che sono partite. Con 10 euro di membrane prendi lo smonti e te lo cambi. È una cosa facilissima. E ha lo spillo conico bloccato se ha carburatore, altrimenti cioè se ha se ha spillocconi, altrimenti ha la membrana, perché partono con le membrane e ti lascia sempre lo spilocconico o aperto o chiuso, capito? Se è chiuso non riempie la miscela, non te la fa arrivare. Se rimane aperto o bloccato ti riempie il cilindro di benzina e si ingolfa, capito? Esattamente. Quindi è quello, se tu vai a mettere in moto e ti riempie il cilindro di benzina, c'è lo spilocconico aperto. 10 euro e te la valgo. Ma tutti a me. Vabbè, succede a tutti, vai già. Vabbè. Ma io con le moto, guarda, ne ho avuto una, due, tre, quattro, cinque, sì, ne ho avuto di moto. Però sai cosa facevo? Quando lo mettevo in moto, le toglievo la candela, la pulivo bene e poi la avvicinavo appena il coso, il dardo che c'è, e lo avvicinavo appena, la ripiazzavo e passavo un primo golpe. Ma quando c'è il civile, lo spilocconico bloccato già, ma è già pulito, mica candeli, butta la benzina, sembra butta la benzina come se piovesse. Sì, lo so. Poi la c'è anche quello, vediamo un pochettino. Se l'amico di Antonio se ne intende, glielo dici che può essere lo spilocconico, direttamente si va sopra a quello. È uno che ha lavorato da Matiani, da un po' di tutti, mi sembra davvero un meccanico. Allora va bene, dai. Allora già di lusso, se l'ha fatto da Mariani truccava anche le moto, l'aveva truccata anche a me. Quando era al quadrato, tu forse non l'hai conosciuto al quadrato, ma Mariani prima era al quadrato. Sì, da Marco Serra ha lavorato. Hai detto già Bongumano era morto per qui. E tu andava bene, non ti fate più problemi. Vabbè, fagliela controllare a tu. Perché ci vuole una mano esperta in certe cose. Ora si dove basta arrivano. Ma capito, vedi, era un coso, era un lio dei motori, ci piazziare un bel. Allora pure Gabino ne sa qualcosa. Cosa già? Adesso che tu già rimettevi male i motori. Diciamo che qualcuno ce l'abbiamo messo mano veramente, però noi mettevamo motori in mano ai motori turbo benzina, capito? Era Santa Arrangiati era già. Noi in questa sacro cuore mettevamo la nostra scintilla, caricavamo la Vespa, gli mettevamo i pezzi che cambiavamo il carburatore, usa di bussoli, la campana, un po' tutto. Caso poi basta la moto, tron, e subito i papperini appresso. E allora c'era questo qui che chiamavano Carosello, li faceva impazzire, li sfidava e si muoveva in pennella davanti a loro, li faceva spiri cuori. Adesso sono tutti quanti a telefonino in mano aspettando queste cose qua per farti il video e essere belli su Facebook. Prima non c'erano di queste cose, prima prendevi e ti divertivi e basta. Adesso qua c'è il rumore che entra in città, subito avevi sentito il rumore così con là, ma pedivi a fare i vostri. Noi facciamo i regali, io avevo la Lancia a tema, io avevo una tema turbo, il turbo benzina. Noi facevamo le gare in via Vigna, Porto Torres, sì, io con la tema, un altro amico mio con Renault 5 Turbo, un altro con la Fiat RS, con la Fiat 1600, la Fiat RS Turbo 1600, l'altro con una Corrado, poi avevo comprato uno Duia in via delle Vigne. Ma prima non c'era sparso il traffico lì in via delle Vigne, me lo ricordo. Ma è pericoloso perché ti esce uno, visto lei a coso, Antonello Pisacito, Pavarascio, se ne ha legato il gallo, mi hanno attaccato al palo, Pavarascio. Lo so, ma no, vabbè, noi di notte, alle 2 del mattino, alle 2:30 del mattino, uscivano le sceriffate così, per carità, cioè a volte io ci penso e dico ma porca miseria, ma mi dice anche tu, ma vero, ma mi rovinavo la vita. Però a 23 anni, a 22 anni, a 23 anni, cosa pensavi? A quello, lui, la macchina piena di ieri, e vai. Ti sento un signore che adesso è buzzato in macchina, a quell'età io me lo ricordo, quando ho preso la patata e mi sono buzzato in macchina, sembravo che avessi chissà che macchina, avevo una 595 Giannini, la prima macchina che ho avuto è quella, 595 Giannini, ma non camminava, faceva 130 nella strada di Marini lì, ho sospassato una Giulia a casa, mi ha maritato, mi dice, sono passato da raso, ma faceva 9 al litro, capì? Sì, e io, tu pensa, io come prima macchina ho avuto la Lancia Tema, la conosci, sì, io ho avuto la Tema Turbo, la Tema LX Turbo, benzina, come prima macchina, va via, 202 cavalli, come prima, non la potevo neanche guidare, capito, non la potevo neanche guidare, però me l'avevo comprata, lavoravo e me l'avevo comprata, ma era in quel periodo mia madre aveva gli incubi, mia madre aveva gli incubi, prendeva i calmanti perché era una cosa assurda. Poi, cioè, tutti gli amici miei, tutti quanti con le macchine, tutti con macchine grosse, macchine potenti, un motore. C'era un amico mio già che girava, che c'era il padre per il Maserati, il 4, era il 433, il Ghibli, il Biturbo, quello 5 porte, cosa camminava questa macchina. Quella macchina era mostruosa. Poi c'era un altro amico che aveva una 19 Shamad 1816 valvole, un altro con la tipo Gran Turismo 2000, cioè, era una cosa assurda, salivamo al quadrato di lì a fare i gari, che tempi. E io al quadrato, io Antonio, Rubabbo, abbiamo visto un tipo facendo le gare lì, più di uno ne abbiamo visto. Adesso quando mi c'è entrato dopo un ricordo dentro il quadrato c'era tutta quella gente che stava parlando vicino alla macchina giovanica si gage, si sono sposati a Milano in pieno la macchina, te lo ricordi? Già me lo ricordo già. Quell'altro che ha capottato, l'altro guarotto che ha pusato la vestita, a me mi dispiace per quella ragazza, faceva girare le ragazze in moto, tirava un me in curva, che si è fatto quella curva dove c'è il mar lì, blu, sono strampati, e dopo la tipa, lui non si è fatto nulla, la tipa si è fatto un bel male, l'ha dovuto portare in ambulanza. Io ho visto un cannone della Mondetta capottando al quadrato, mi alle 4 del mattino. Che allora. Perché sono pazzi anche questi turbini che guidano, sono pazzi, camminano un bel, anche i tranvieri qua a Sassari, camminano un bel, stanno sempre a malettone. Comunque ce n'è una di Porto Torres a Sassari che guida il tram, tu lo sai? Sì, la conosco, è la sorella di un amico. E chi si accudi mi pubblica? Chi sa grattare le mani pubblica? La conosco anch'io bene, Picciolina. Sì, lui lavorava una frutta e verdura, ma l'aveva letto, però aveva vinto il concorso, ma te già io ho vinto il concorso, non so come fare, ha detto, ma di dire basta, bisogna dire una frutta, bisogna prendere il concorso a TP per la frutta e verdura, e ci sono affezionata, vabbè, comunque poi l'ha letto, è entrata lì. Ebbè, ha fatto bene quella ragazza, ma quella guida, brava guidando. Guida i tram grandi anche, prima l'ho vista con gli scuola, nel senso guida anche i tram grandi. Sì, è giusto che una donna faccia tutto, è giusto. Ma che ora si è fatta? Saranno le 7:30. Sono al buio, adesso a vedere se lo vedo. Ecco. Sono le 7:08 me lo dico. Eia, dai. Allora io chiudo che sarà quasi pronto. Che sarà quasi pronto già. Dai, ci sentiamo. Quindi dopo cena mi faccio un giro qua in radio. Vedo un po' se c'è qualche cosa di propaganda, altrimenti spengo il curico, che domani è una giornata un po' così, un po' pesantuccia. Va bene, dai ragazzi, ci sentiamo tutto alle prossime, ci sentiamo tutte le prossime. Ciao Gianni, ciao Antonio e ciao a tutti gli ascoltoni, a tutti gli ascoltoni madrelingue. Ciao ciao. Ciao ciao, noi stavi bene, dai. Buona carica quando la fai. Grazie per il questo, a domani, se no stasera magari se rientriamo, dai. Avanti Antu. Ehi Acappa, ciao, ce la risentiamo alle prossimine. Beh Antonio. Ui, ciao. Già va, ciao Gianni, ciao Antonio, chi c'è qua? Lui ci siamo fra, io e Antonio e basta, e poi la resi di buffo ci sarà. E dai, vi saluto tutti e due. Ok. Ciao, mi hai sentito, dai. Quanto ne stai andando o stai entrando? No, veramente sono coricato, sono dentro il letto. Pure io, con la coperta di pile sopra, al calluccio. Beh, ho freddo già, che avevo la tuffa. Ho acceso la vitro, tutta la sera accesa. Adesso ci sta da Dio, anche a maniche corte ci può viaggiare. Ti ho preso la vitro? Ma ce l'avevo, ma c'ho anche quella pellet che è in camera da pranzo. Già lo so, mi ricordo vecchi tempi quando venivo, non potevo stare dal caldo che andava quella lì. Certo che guardavo a gas, ma non si poteva stare. E scalda parecchio, ma anche la Zimbro che c'ho in cucina. Infatti gli accendo tutti e due. Picchettera, e non sono due cose. Ma come la fosse funzionare col carosello? Beh sì, già. Sì, quella carosella è l'altra pelle, però non è che l'accendo spesso, oggi l'ho accesa perché c'era un po' di freddo, a fare surriscaldare un po' la stanza. Tu sei da solo, non c'è nessuno che ti scaldi. Ma lo sai quanto sto bene, alla grande. Sì, bene, primi giorni poi comincia a andare in salita. Vabbè, ogni tanto già ci vuole uno stacco, dai. Va bene, dai. E anche io adesso un po', la lunedì sono, diciamo, più libero anch'io, dai. Cava, da domani. E io ho trovato lavoro, vedo. Sono contento, dai. Dai, Bianco per me, dai, cioè Bianco, buon occhio a tutti, io vado a coricarmi, che non sono di buon umore, stasera. Ciao a tutti. E tu non te la prendere, dai, già passano le cose, se stai a farti vedere malumore per queste cose. Un po' per tutto, anche non si potrà fare niente, cioè, non faccio di nada, cioè, sono un pochettino girato di balle. Guarda, c'è la soluzione a tutto, solo la musica non è la soluzione, poi per il resto la soluzione si trova prima o poi, no? Lo so già, però... No, non voglio più tornare che da perché se io sono frusi non mi piacciono. No, guardi tutto di più. Devo un consiglio, aspetta, prima cercatene un altro e poi decidi di non andarci, altro se avevo un consiglio da amico, poi vedi tu. Non posso ancora, cosa devo stare? Ancora spendere il soldi e andare lì. Ogni giorno che ci da casa ci vogliono soldi. Lo so. Vabbè, vedi tu Antu, dai. Avanti, Franco. Ciao Antu, buon QRT, buon tutto. Tranquillo, ci risolvono sempre problemi prima o poi. Schifo. Sono uno schifo, ma gliela faccio pagare a tutti, però per Gesù Cristo, guarda. Mi la posso pagare tutti i gatti, mica mi sto rimettendo in forma, divento una bestia adesso. Però per Gesù Cristo gliela faccio pagare. E va bene, tu cosa ci vuoi fare? Purtroppo è un casino la vita. Se ti fai il fegato amaro, lasciami lì. Non ci pensare adesso, si trova una soluzione. Iscriviti all'ufficio di collocamento, fai qualche cosa. Stanno dando lavoro all'ufficio di collocamento, prova a iscriverti. Non so. Marco l'ho iscritto ieri, mi sono andato ieri e l'ho iscritto. Gli hanno detto che per informatica stanno cercando gente. Io non so. Vediamo di trovare un lavoro perché c'è bisogno di lavorare qua e tutto. Cioè, io non voglio andare da una persona che non ti dà i soldi, non ci voglio andare. Cioè inutile che vado lì, a che cosa? Stare a fare la lotta. magazzino, come un giorno che sta appunto via non metto deposito. Mi sono chiusi d'estate e ho avuto un minuto di crisi, io voglio stare tranquillo. Eccolo, c'ha ragione. Però vedi un po'. Tu, ne parliamo in verticale, dai, puoi andare anche a chiedere agli assistenti sociali e cose, magari qualche cosa te la danno. Devo vedere un po', perché non posso andare da una persona che non ti baca. Quello no, quello no, quello dà fastidio, lavorare senza essere pagati. Vabbè, cosa devi fare? Pazienza, cosa vuoi fare? Cercatene un altro e si lo mandino a Mara. No, posso stare anche con i piani. Ma in qualche maniera cambiamo lo stesso, in qualche maniera. Ti capisco, cosa vuoi che ti dica? L'unico è trovare un altro di lavoro che non è semplice perché non è semplice. Se c'è qualcuno magari che ti vuole aiutare, che ti aiuta, lo troverai un lavoro, dai. Magari dicendo in giro così c'è qualcuno che ti aiuta, ti fa lavorare qualche posto. Fare eccetera eccetera e no, se vabbè ti faccio una verità che ti devi dare almeno quello. Beh, se no vuol dire lo stessi, se non può non pagare la gente così dopo che ha lavorato. Avanti, fra. Si conferma, e purtroppo già, purtroppo ci sono anche di quelle persone, capito, che prendono le persone a lavorare e poi non gli pagano, ti danno la caramella e dopo gli altri te le danno quando piace a loro. Sì, se ti rasi il burro, via, lascia perdere, là. Io ci sono in mezzo e adesso qualcosa, siccome sono stato col tourist market, io sono stato sempre pagato, mi hanno dato la liquidazione e tutto, poi il tourist market ha dato i dipendenti a questa agenzia, a questa ditta, che doveva tenere solo il personale, quindi da lì, dal passaggio dal tourist market al coso, l'ha preso questa ditta qua. Questo qua era un delinquente, l'hanno arrestato e praticamente non ci ha pagato manco la liquidazione dal passaggio che hanno fatto dal tourist market a lui, da quando l'ha preso lui non ci ha pagato la liquidazione, quindi mi deve dare 16.000 euro, non ti dico altro. Per carità, ui ui. 12.000, a me me ne hanno bruciato 13.000 di euro, capito? 16. A me 13.000, perché lui praticamente ha messo il nome sotto, se è uscito dalla vita l'ha intestata ai figli, capito? E ci ha bruciato 13.000 euro. Cane morto, che... cos'è il multinetto? Con la Zanussi, cosa è un multinetto? Con la Zanussi. Cappa, via, già le trovano tutte le scappatoie, bastardi, questo qua lo stavano seguendo perché non pagava le tasse e poi hanno scoperto che era un mese all'andrangheta e l'hanno pedinato e l'hanno arrestato. E adesso è libero, lui ha preso la casa in Costa Smeralda, lui in Costa Smeralda fa un paranzato, cioè, non so se è certo dipendente, ha tenuto la ditta aperta e se non fallisce lui non ci dà nessuno, non dobbiamo fallire per dare i soldi a noi, capito? Per carità. Allora, io sono riuscito a recuperarne 12.000, 12.000 TFR e basta, gli altri tutti bruciati, anche in mano all'avvocato, tutto qua, niente da fare. E va già intestato la ditta ai figli, non abbiamo fatto niente, non potuto fare niente. Lo so, anche noi siamo con l'avvocato e tutto, addirittura non rispondono al telefono, perché è una ditta di Torino questa qua, capito? E non rispondono al telefono, si fanno sentire, quindi non so come, capito? Io mi sono sentito preso per i fondelli dopo aver lavorato tanti anni, avermi fatto il mazzo. La ditta Tourist Market è stata seria e ci ha pagato sì dall'ultimo centesimo, ma da quando l'ha preso questo disgraziato ci ha bruciato tutti i soldi. E io le ferie me le avevo fatte, tutte quante, ferie, permessi, tutto, perché ero malattia, quel periodo non potevo lavorare, c'avevo, già non so fra che cosa c'avevo sotto al piede io, già l'hai visto. Quindi non potevo lavorare, mi bruciava da crepare, specie quando sudavi. E quindi ho fatto tutta la malattia, poi mi hanno attaccato le ferie, mi hanno fatto tutte le ferie, tutti i permessi, quindi io mi ho sfruttato tutto, ma c'è gente che deve lavorare ferie, mesi che non gli hanno pagato, un sacco di roba. Siete magnaccione, già, per carità, già, ma veramente, gente di merda. Magnaccione, gente che dovrebbe andare, guarda, come l'ha saputo, gli ha detto una persona, gliel'ha detto, e l'aveva detto che ha finito di darsi cosa, e secondo se ne ero sentito, ma a me non ha finito, a me fa per me i miei soldi, cara, tu ti trovi in culo, tu, un negozio tuo, io rientro in me, perché no, non esiste essere trattato da... lei è un grosso, una grossa vita, cavolo, c'è un sacco di bombole, c'è capannone, boh, io non riesco a capire come facciano a pagare il personale, boh. Non c'è me. Qualche maglietta, c'è questo qua, sei giovane, se lo trovi lavoro fallo. Certo, questo reddito cittadinanza lo toglieranno fra poco e molta gente non ne potrà più usufruire. Quindi c'è questo assegno unico adesso, pure, non so come ti direi, ne chissà cosa. E vabbè, comunque, tanto se trovi lavoro vai a lavorare, anche il fatto di stenderti lavorando, certo non deve essere un lavoro che ti dà problemi, se ti dà problemi è peggio la meno ultimo. Ma se hai dei dinami tieni, se no non so più. Siamo manco contributi, era la galera. No, 10 anni me li ha dati, 10 anni io. Ci avrei saputo già 20 anni di lavoro. Allora, ma questo lo lasciamo perdere, ma io non ti devo dire niente, non ti voglio male, però almeno dammi quello che ti dare. Vabbè, è normale che uno si alteri quando vede che non mi arriva i fondelli dopo che ha lavorato. Avanti fra. Infatti lavoro una vita poi per essere preso per il culo. E gli ultimi tratti te ne vado nei negozi. Già ti danno le noccioline con queste pensioni misere che danno. E dopo ti pigliano in buco i fondelli. Via. Lascia perdere, va. Come dice, Nato, quanti anni ci eri lì lavorando? 20 anni c'era, 10 anni l'ha bruciato e 10 anni l'ha pagato. Come hai sentito che l'hai detto? 20 anni. Antonio c'era piccolo, io non lo ricordo, che veniva a casa da piccolo. Io i soldi di una rete di docca. E se non lo stesso si fa di loro, eh? Sì, ma se mi hanno tutto al legale da gli danno, non ti preoccupare, prima o poi lo pagano. Mi va buono là. Adesso un po' ti sei sfogato, non fa vedere. Io, intanto ogni freddo che ha fatto oggi. Freddo? Ma io sono uscito stamattina a portare il cane, adesso ci tengo a portarlo. E non ce n'era freddo. Forse perché che c'avevo quel giubbottone, quel piumone grosso grosso. Stamattina sono sceso a Platamona a fare un giro, c'era un mare da paura. Calmo? La montana piena già. Com'erano le onde? Un bel alte. Che serola. Come la Platamona a pescare volevi andare? No, sono sceso così a farmi un giro, a trovare un amico col camper, poi ho trovato... Sono sceso perché c'era Bruno, invece poi è salito perché doveva fare cosa. Stasera lo sentite Bruno, non usciva basso, dice che gli hanno cambiato il microfono per uscire bene, invece lo sentivo basso di radio. Cosa, Bruno c'ha problemi di antenna anche lì? No, che si è preso la mini turbo, si è preso, l'ho fatto prendere io. La mini turbo va bene, i due segnali di meno della mia arriva, però va bene. Dai, ecco per me, io ti saluto. Ciao a tutti che vado a dormire, domani andiamo a fare la terapia, ciao. Ciao a tutti, tranquillo, dai. Non ci pensare, se un ferro non dormi. Ciao, buonanotte. Buonanotte, ciao. E auguri. Avanti, Efra. Ciao a tutti, saluto al cuore, buonanotte, dai. Ci riascolta domani, se coincide. Kappa. Poi, mi fa male al cuore sentire certe cose, c'è qui. Purtroppo ci sono anche queste cose qua. Un casino, Purtroppo sì. Quindi vabbè. Sì, quando è andata, è andata. Vabbè, io dove ho lavorato io non ho mai avuto problemi di pagamenti, niente. Quel giorno lì il 5 si pagava puntuale. Quindi praticamente questa commessa si è lamentata perché un giorno non ce l'hanno fatta andare in banca a ritirarli e si è lamentata e allora lui ha detto io c'ho tempo, si dà il 15, adesso visto che ti sei lamentata io ti pago il 15, te l'ha fatta apposta e ha pagato tutti il 15, capito? L'ha spostata la data. Per punti, no, noi ogni 5 ci pagavano. Anche a lui, sempre ogni 5 ci pagavano, poi ma ci dava tutto, non ci ha mai detto vi do 100 euro, poi vi do gli altri, no, mai successo di queste cose, faceva l'assegno mensile, tutti i mesi ci pagava di lusso, dai. E anche la ditta nostra, è entrata una cabacciona, senza fare nomi. Andava a fare, lavorava e non ci faceva pagare, ma pagava quello, non pagava l'altra fino a crollato. Poi la cosa ha migliorato, addirittura dopo che sono andati via gli anziani, che sono andati in pensione, sono subentrati figli, nipoti e cose, ed erano molto più gentili, ti chiedevano la cosa per cortesia, Gianni per cortesia può andare via Piemonte per dire che era un problema, deve essere grande, eccetera, andavo e riposavo l'olio col grasso, con la cosa per la nafta e olio, ripassavo le guide perché le commesse dice che si è fatto male al braccio, tirarlo lassù, questo e quell'altro, mi chiedevano le cose per cortesia, capito? Dove sei già? Sono via Piemonte, ascolta, guarda, ci sarebbe da fare una consegna, ce la fai, io mi dava tutto, visto l'una e mezzo, io sia l'una meno un quarto, io sia l'una e mezzo lavorando senza problemi, le due. E magari neanche le ore in più ti pagavano. No, però già abbiamo messo il sindacato e da lì ha cominciato a darci permessi. Allora tu facevi le ore, le accumulavi e poi ti davo un giorno di permesso, per dire, accumulavi 8 ore e ti davo un giorno di permesso, capito? A parlando, ma già te le dava, ti davo i permessi. Io c'ho a Romeo e nata Rugabo. Liberato là. Oggi è tutto il giorno libero, se ne va da cucina a cameretta, sempre gli rendi. Perché stai cercando la femmina, non gliela prendi? Già, c'è fuggita dalla finestra la femmina. E ne invidi un'altra. E a 50 euro. No, troppo 50 euro. Ma caso lì che io vedo le calopsite, le vedo 30 euro, al massimo 25-30 euro le calopsite, ti è arrivato male a 50 euro qui, risolve è troppo. Allora 50 euro l'uno, tutte e due 100 euro, il maschio e la femmina, piccolini non grandi. Già li conosco, li ho visti. Sì, inseparabili sono così, sono piccoli. Io le calopsite di ieri, non so quanto le ho pagate. 40 euro tutti e due me li ho portati via, hanno cominciato a fare figli e li ho recuperati subito le 40 euro che ho speso. Ma questo c'è un'intelligenza già allucinante. E anche i miei, le calossite di Elena, ce n'è una sola che ti sale sulla testa, ti va sulle spalle e cosa, la femmina, però il maschio è più diffidente, ti minaccia, fa quando vai a prendere. Invece i miei sono tutti quanti addomesticati, io li tolgo dalla gabbia e ti fermo subito sopra. Anche a Torino, vedi, c'ho le fotografie di Torino, che li sono andati sopra, ce li ha sulle spalle, in testa, da tutte le parti. No, i miei già sono tranquilli, poi parlano, fanno ridere, ti dicono aiù. Quando io li faccio così, no, quando ho finito di pulire la gabbia, li chiamo col fischio, loro vengono correndo, voi siete in gabbia azzurra. Che questo canta bene, la mattina. Adesso me ne stava tirando le cuffie da testa. Ma fischi non imita, tipo la famiglia Adams, come fischia le mie, non la fa. Fischia. Il mio fischia la canzone della famiglia Adams, fa. Fa la canzone della famiglia Adams, poi fa. Poi cosa va? si deve di un medico, se dice io, non lo so. Con questo qua non sto facendo qualcosa, no? Se ne viene addosso non ti fa fare niente. No, io... Allora, io ho Marley, che è quello che io avevo preso, ti ricordi che me l'ha scappato uno? E io avevo ordinato subito l'altro, Marley. E Marley l'ho preso piccolino. Poi questa donna l'ha ritrovata, e mi ha telefonato a casa perché l'avevo messo su Facebook con il numero di telefono, e ho scritto anche che chi trovava quel pappagallo non poteva tenerlo perché non aveva il documento ICTS, se li trovavano erano fatti suoi. E mi ha telefonato questa signora dicendomi che l'aveva trovato lei in via Nulvi, di andare a prendermelo perché lei non sapeva manco cosa darle a mangiare, sono andato a Gurrendi e me l'ho preso, ho detto signora guardi cosa ne posso fare, come una con i figli, uno glielo do, sì va bene, poi gli ho telefonato quando sono andati i figli, praticamente mi ha detto che non poteva, che aveva preso il lavoro, che non poteva comprare la gabbia, che di non preoccuparmi, che magari tempo più in là se c'era altri, se faceva altre cose se lo prendeva, e me l'ha ritrovato, quindi adesso ne ho tre, però Marley è quello più intelligente, quello che è più addomesticato, diciamo, non è più intelligente. Gente. Mi va sulle spalle, mi dà i bacini, dico dammi un bacino, fa così, mi dà i bacini, capito? E me lo mandi, parla poco perché ancora è piccolo, capito? Dice solo ciao. Ma che ne hai? Tre? Tre più due, cinque. Tanto. Vabbè, quelli che c'è tu sono belli, sono grandi. Quelli che c'ho io sono belli davvero. Sono costosi, perché per dare da mangiare spendi un sacco di soldi, 40 euro costa il mangime. Vabbè, ma sono belli, li ho visti io, c'ha bei colori. Se sono i pappagalli più colorati che esistono, scherzando, stai, dei più colorati. Non so se ce ne sono altri più colorati di quelli. Questo qua già è bello, come è piccolino, come il pappagallino, però è obbediente. Se ti dà la mano duia diventano obbedienti, sono intelligenti, li puoi far fare i giochetti, prendi una bacchetta, gliela fai girare attorno e loro girano attorno, li fai giocare con la pallina, io li faccio sempre giocare, lì si mettono la pancia in alto, si mettono a giocare, prendono le mollette col becco. Questo è addestrato da piccolino, capito? Però quelli, sì, parlano anche quelli, perché tutti i pappagalli parlano, anche le coccolite, però è più difficile, capito? Questo è un po' difficile addestrarli a parlare, non sono come i tuoi. Anche me bisogna starli appresso, bisogna avere molta pazienza, non ti credere, bisogna farli uscire, io le faccio uscire un'oretta, mentre pulisco le gabbie, loro mi vengono tutti quanti addosso, poi la mattina non puoi fare colazione, se loro sono liberi, quando stanno mangiando il latte ti vengono sulla scodella e ti rubano il latte. Questo qua già è obbediente. Solo che quando stai facendo qualcosa te ne viene addosso, non ti fa fare niente. I miei stanno fermi addosso, io posso uscire con la finestra aperta tutto quanto, non scappa. Perché con la finestra aperta? Sì, nel terrazzo sì, nella veranda c'è la finestra basculante e rimane sempre aperta. Io esco fuori dal terrazzo, lui rimane sempre sopra la mia spalla. Ho capito. Vabbè. Quelli te li ha addestrati da piccoli tu però. Sì, specialmente Marley, Marley era piccolino quando me l'ha portato. È cresciuto qua, sono cresciute le prime qua tutto quanto, proprio bello. E lui mi riconosce, capito? Come gli ha preso lo sportello mi va direttamente sulle spalle. Cosa costano di quelli? 300. Beh, costano quelli lì, quanto costano? 300? Cappa. Vabbè già, cosa te ne frega. E a me piacciono. Certo, uno in più non l'avrei preso, allora io sono partito, dovevo prendere uno di quelli. Poi l'allevatore mi ha detto, ascolta, se te ne prendi due ti faccio lo sconto, prendo due per 400 euro, ti va bene? Ho detto portameli due. Me li ha portati, però uno era malato, lui non mi ha detto nulla, c'aveva un virus e mi è morto, nemmeno un mese mi ha durato e mi è morto, mi ha fottito. L'ho portato alla veterinaria perché stava sempre vomitando, di quella viaria, di quella di via Alghero, ce n'è una sola, sassi. L'ho portato, gli ho dato la cura, gli ho fatto tutta la cura, tutto quanto, il giorno mi sono stato per andare in bagno di notte e ho trovato la fondo della gabbia a mezzo voce, l'ho preso in mano e mi porto in mano. Io, per carità, peccato. Quindi ho ritelefonato un altro allevatore di Cagliari, che adesso quello di Nuoro, ma non lo cerco più. Quello di Cagliari è un bel gamba, me l'ha portato sino a casa, tutto quanto. Ho telefonato a lui, me l'ha portato, sono stato contento di non ordinare anche un altro, capito? Quindi adesso ne ho tre. Se mi ha detto di comprare una gabbia più grande, di fare i figli che mi faccio i soldi, ma non me ne frega nulla a me. A me mi interessa avere loro e basta, perché poi devi andare a denunciare a forestale, ti fanno il foglio CITES per ogni pappagallo che nasce, devi mettere il microchip e il documento CITES, trascrivono il microchip nel CITES di modo che ogni pappagallo corrisponda a quel documento, capito? Ho capito, sì. Non è facile tenerli, dai. Gli altri pappagalli no, non ne hanno bisogno perché non sono in via di estinzione, ma questi qua hanno bisogno del documento CITES, se no non li puoi tenere. Prima le scimmie non le potevi portare a casa, adesso non le puoi portare più. Non le puoi più tenere, no? Ui, un casino. Prima mi ricordo che quello dove c'era il corso, non so se te lo ricordi, quello lì ce l'aveva la scimmia, una volta sono andato e mi dava la mano dalla gabbia, a un certo punto non mi ha tirato l'urino, se mi dava sulla sede, non ce la faceva mollare, se è dovuto venire, no, non le devi mettere, caso ti sfascia tutto questa qua. La scimmia è tremenda, ce l'aveva un amico mio lì giù a Ottava. È rispettoso, ce l'aveva un'amica mia e mi ha detto che un giorno l'ha sgridata perché stava toccando roba che non doveva toccare, perché era libera in casa. Dice, questa qui mangiava con lui, c'aveva il piatto, mangiava come cristiani. E fatto sta che gli ha detto cosa, poi gli è andato a lavarsi i capelli, si ha tolto tutti gli anelli, bracciale, cosa ha fatto la scimmia, è andata, si è preso tutti gli anelli, si è andata su mobile, la chiamava, faceva così, lì si girava e li induzzirava tutti gli anelli, se li metteva in bocca, tutti i gatti induzzirati, tutti i gatti arrotolati, e gli anelli si sono tutti fasciati gli anelli e il bracciale. E dice che non poteva fare nulla perché era sopra il mobile, cosa faceva? E poi gli faceva vedere, capito? Cattiva, tutto dispettoso. La scimmia è ladra di natura, già. Poi un giorno il padre si è incazzato perché ha detto, adesso basta, questa scimmia a tavola non la voglio vedere, era del fratello. Non la voglio vedere questa scimmia a tavola. E ha preso, abitava in campagna a Marchetto, se l'ha legata a un albero con la corda e praticamente lì cercando di liberarsi e cosa si è strangolata, l'ha trovata piccata, si è strangolata proprio cercando di scappare, di togliersi la corda, capito? Si è strangolata perché non era abituata, era sempre libera in casa, capito? E l'hanno trovata morta, poi il fratello quando si è incazzato, mamma mia, l'aveva pagata 1,5 milioni, allora me lo ricordo bene. Cazzo, 1,5 milioni, ui, mi avevo battuto quando ho pigliato una scimmia, 1,5 milioni, già, beh, allucinante, quindi oggi non sono uscito da nessuna parte? Sì, sono uscito col cane stamattina, sono uscito, mi ho fatto un giro, poi c'avevo gente a casa, aiutato a cucinare, questo, quell'altro, capito, passa il tempo. Ho messo a fare il pollo, il forno, poi ho fatto un riso alla pescatora, vabbè, insomma un po' di tramusto c'era, poi quando sono andato via mi sono sdraiata che non eravamo zibi. Quando c'è un po' di gente, è un lavoro, sembra così, ma c'è da fare. Sì, ci sono piatti, dello scolapiatti da ritirare a gogo. Piatti, coso, pentole, tutto quanto. Domani di nuovo in salita. Beh, li fai fare a Evena. Non c'è, se devi andare al lavoro. Ma dove hai trovato? A Sassari o fuori? Sassari. Vabbè, già. E che ci vuoi fare? Vuol dire ti fai per i fettoli adesso le corsette, ma anche fuori dorme lì. E giornate libere non ne ha? Sì, ce le ha. Sì, allora già va bene. E domenica, giovedì, due giorni, 2 ore al giorno, insomma, già ce le ha. Vabbè. e purtroppo lavoro non ce n'è, e che devi prendere quello che esce. L'importante è che ti paghino bene, poi per il resto non c'è problema. Sì, sì, tutto sindacale. Assicurata, tutto? Sì, sì, sì, tutto sì, assicurato e tutto. E allora già va bene. Partiamo già a pigliare, prendere le persone e poi non vi assicura, capito? No, peraltro. Ecco, buonasera. Ciao Wayne. C'è un altro, avete finito di cenare adesso. Io non so se una cosa ho mangiato, giuro io. L'avevo anch'io però. Io ho mangiato l'avanzo di pranzo. La carne con le olive. Carne con le olive e la cipolla. Un finocchio. E senza pane, e senza pane. E la glicemia era 201, quindi senza pane. Io, vabbè, stamattina ho un po' sgarrato, c'era la risma pescatola e poi c'era il pollo con le patate, e vabbè, poi la frutta, l'insalata, e un po' sgarrato, ho mangiato il primo, di solito non ne mangio mai il primo. No, io già, oggi niente primo, tutto il giorno niente primo, niente primo. Buonasera Franco, avanti. Ciao Gabino, buonasera, mi ascolti lì, sì? Positivo, 9.5. Beh, sto utilizzando un apparecchio omologato, Gabi, e microfono normale della radio, dai. E positivo, già ti sento bene. Ti copio bene, ti copio bene. C'è nato tu, Fra? Io adesso devo dire la verità, io mi sono fatto un tosto e basta, stanotte. A pranzo ho fatto delle pennette all'arrabbiata e buh. Primo e un secondo salsiccione col vino con le olive e cipolle. E allora abbiamo mangiato la stessa cosa. Però io solo secondo, sia a pranzo che a cena. E va bene, e va bene. Avanti Gianni. E già mi piace così, anche le alette di pollo io faccio così, che sono saporite. Mi piace molto. Come fai i fegattini, dai, come fai il fegato, cosa ti posso dire? Il cuore. Così io ci metto il vino, cipolla, il vino, sale e tira campa. E positivo anche io. Anche noi le facciamo così. Ui ui. E va bene che va bene. Vai già. Allora io ho fatto il salsiccione con le cipolle, vino e gli olive. Non ci avevo vino, se sai cosa ci ho messo a posto del vino? La birra. E va bene lo stesso la birra, Ed è uscito di uscio alla grande lo stesso. Ma... Sì, anche il coniglio io faccio con la birra. Ci metto la birra nel coniglio per non lasciarlo troppo asciutto. La carne di coniglio non fa asciutta. Adesso è uscito di lusso perché ci ho messo praticamente cipolle, olive, birra e poi ci ho messo l'origano. Ah, buonissimo, è uscito buono. E invece la pasta ho fatto sugo col tonno, cipolle e poi ora ci ho messo pancetta. Sì, non so cosa ci aggiungo, un po' di rosmarino, una foglia di... un rametto di rosmarino li metto in mezzo per dare il sapore. E anche io, però non ne avevo rosmarino, l'ho fatto così. Vabbè. Io già mi arrangio tutto, io non ne ho problemi. L'unica cosa che non mi posso stirare. No, io non stiro. Tutto faccio fra io, lavo, cucino, lavo tutto, bagni, polvere, lo faccio, però stirare non mi piace brutto. Ma mi sa che non ti ha dato nessuno a stirare. Vai Gabi. A Francia, pacari dai. No, anche io faccio tutto, a me io problemi non ne ho. Anche io prendo quando la compagna sta lavorando e c'è da fare faccio, non mi tiro indietro. Però mi piace cucinare, lo vedi? Cucinare già mi piace. Però ho visto che mi butti, dai, ti hai su cucinare di roba di carri e roba di gozo, che sono magari di sabato o di domenica mezzogiorno, che c'è il vino buono, dai, perché mi vengo un litro di vino. Quello già mi frega, cucinando a me mi piace bermi il bicchiere del vino, non c'è niente da fare. Bermi il bicchiere del vino e prendermi l'aperitivo cucinandomi. A me stare seduto a prendermi l'aperitivo non mi piace, l'aperitivo me lo devo prendere o arrotendo o cucinando. fare sa chi sa gaggio, vino, ruio, buono, però facendo, capito, altrimenti stare seduto a me mi prende l'angoscia a prendere l'aperitivo. E vabbè, anche io, quello sì, senz'altro. E beh, almeno ammazzo il tempo. No, seduto non ci riesco, no, no. Ma anche se vado al bar non mi siedo quasi mai. Di solito prendo l'aperitivo, me lo prendo sempre in piedi. Sì, no, no, io, vabbè, io a prendermi l'aperitivo al bar non ci vado. Cioè andavo prima, adesso no, non mi piace più a chi... Ma non perché non, perché non, non mi va, mi va più, mi aggrada più prendere l'aperitivo. Se c'è un bar che ha del vino buono, sì. Se c'è un bar che ha del vino buono, sì. Un bicchiere me lo posso anche bere. Però a me non mi va questa storia dei vini bottigliati, capito? Io il vino lo prendo scuso, lo prendo da proprietario, quindi so cosa mi dà e so cosa, cosa sto bevendo. Poi da quando ci sono queste patenti, io la patente ci lavoro, quindi non, non me la rischio. Perché? Perché anche se tu sei attento non ci sono posti di blocco, viene distratto, ti si sbatte dietro e tu hai due bicchieri di vino in corpo, te ne fermano la patente. E oggi se ti fermano che anche che sei coinvolto in un incidente e hai bevuto, in rovinano, passi nel penale e ci sono le manette. Ma com'è Romico? Stamattina c'erano due pattuglie giù scende da Platamona, capito? E stavano bloccando tutta la macchina e stavano salendo e scendendo. Sì, e stavano cercando quello loro, capito? Patenti e gente in stato di ebbrezza, non in stato di ebbrezza, anche gente che è tranquilla però che ha bevuto per fare cassa. Devono fare cassa, capito? Quindi bisogna prendere in contropiede e non bere, bere a casa. Bere a casa mi bevo quello che voglio. Però in giro, anche per esempio quando vado alla mia suocera, quando vado alla mia madre, quando... dice troppo perché il vino, zero, niente, tolleranza zero. Anche io se sono nelle altre parti della società non bevo niente. Sono a casa, mi qualche bicchiere di vino, giusto così, giusto per... però fuori non sto più bevendo niente, ho capito. No, ma non conviene, non conviene. Io a casa già me lo bevo, io a casa non mi manca mai a me il vino. No, non è che mi bevo due litri, però... i giorni come può essere lo sabato e la domenica un bicchiere, uno, due bicchieri a pranzo quando è già me li bevo, anche sabato notte due bicchieri già me li bevo, no, non è quello. Però se dovessi bermi fuori sono sicuro che mi fermano con la scalogna, io mi fermano. No, io no. Cazzo dice non ce n'è, questo di bloccata non ce n'è. Fredda Niedda, vicino a Città Mercato, lì alla piazzetta è sempre posto di blocco. Scendendo, posto di blocco. Vai là e viene una... cioè è tutto pieno, c'è una vai. Stanno facendo controlli a tappeto, capito? Quindi è meglio evitarle certe cose. Sì, ebbe. Vai Gianni. Sì, la soluzione avrebbe un po' quello che dove c'è la piazzetta, però salendo verso su. C'era la macchinetta, c'era tutto il traffico, tutto il caffè che c'era nei vicini, però poi stavo sorpassando, alla fine ho visto la macchinetta, ma come arriva la macchina ad andare insieme, mi sono gubbio a fianco, forse non me l'ho beccato, ma non stavo manco correndo, ho fatto un po' rallentare. Già, ti bloccano subito, non ce n'è. Allora io quando stavo tornando da Sant'Antioco, prima di Campeda, sulla destra mi hanno bloccato lì la stradale. Mi hanno controllato la prima cosa le gomme, subito, patente, libretto, revisione dell'auto, tutto, ti stanno controllando la tua assicurazione, l'assicurazione non me l'ha neanche chiesta, perché ha guardato dalla targa e ha visto già che il veicolo era già revisionato e assicurato. Addirittura le gomme con lo specimetro me le hanno misurate. Ah, vero. E la stradale sono pignoli. Pignoli. Qua cercano sempre di attaccarsi a qualcosa.